12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro, un programma dedicato al tema giovani e lavoro. Nelle nostre puntate affronteremo varie tematiche, avremo con noi vari ospiti e cercheremo proprio di capire che cosa sta succedendo in questo momento nel mondo del lavoro e quali sono le possibilità per i giovani. La puntata di oggi è dedicata a imprenditoria giovanile. In un momento in cui, come abbiamo detto, appunto, è molto difficile per i giovani entrare nel mercato del lavoro, vedremo quali sono le possibilità di crearsi un lavoro da sé. In questo momento sentiamo parlare di startup, business plan, strategie di marketing. Vedremo di capirci un po' meglio, di avere anche magari delle dritte proprio utili. Lo faremo insieme a Venezia Opportunità, che ci racconterà chi sono e che cosa fanno. E avremo con noi ospite Giulia, una ragazza che sta intraprendendo in questo momento proprio questo tipo di percorso. 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Diamo il benvenuto a Mara Marcassa di Venezia Opportunità, servizio nuova impresa. Mara, chi è Venezia Opportunità? Che cosa fa? Venezia Opportunità è un'azienda speciale della Camera di Commercio di Venezia. È il braccio operativo della Camera di Commercio e in particolare si occupa di percorsi di alternanza scuola-lavoro dedicati alle scuole superiori, di formazione e informazione per aspiranti imprenditori e di marketing territoriale per la promozione delle aziende della provincia di Venezia. Servizio Nuova Impresa, nello specifico invece, di che cosa si occupa? Il Servizio Nuova Impresa, nello specifico, si occupa di fornire orientamento e informazioni a tutti gli aspiranti imprenditori. Per informazioni intendiamo informazioni relative a procedure burocratiche, alle agevolazioni finanziarie disponibili nel nostro territorio e a informazioni di base relative al mercato di riferimento. Ecco, se volessi dare proprio qualche consiglio pratico per chi si appresta un po' a entrare in questo mondo, che cosa ci diresti? Allora, assolutamente è necessario e fondamentale in questo momento la redazione di un business plan, quindi di un progetto di impresa prima di partire. Questo perché? Perché è necessario prima di tutto svolgere un'analisi e un'indagine di mercato relativamente all'ambito in cui ci si vuole cimentare. Ed è anche necessario ovviamente verificare una fattibilità economica finanziaria del proprio progetto per capire se questo si può autosostenere. Certo, e dopo aver redatto appunto questo business plan, magari proprio i primi passi che un giovane che vuole appunto intraprendere un'attività in proprio, che cosa deve fare? Allora, deve informarsi sicuramente sulle diverse procedure burocratiche per aprire l'attività. Esistono infatti determinate categorie settoriali che prevedono delle caratteristiche professionali piuttosto che personali per appunto l'apertura dell'attività. Oltre a questo, eventualmente informarsi anche sulla possibilità di accedere a dei finanziamenti agevolati o a delle agevolazioni fiscali che sono appunto in essere sia per la parte, appunto, che dicevo, finanziamento, sia per la parte fiscale. Ecco, proprio riguardo a questo, Venezia Opportunità è all'interno del programma regionale Imprenditoria Femminile e Giovanile e si fa riferimento alla legge 5799. Ecco, in breve magari ci spieghi che cos'è questo programma e la legge a che cosa fa riferimento? Certo, il programma regionale prevede tutta una serie di eventi formativi gratuiti e di consulenze personalizzate, sempre gratuite, rivolte ad aspiranti imprenditori, giovani e donne in particolare. Noi facciamo parte di questo programma, come anche le altre province della Regione Veneto, e nei prossimi mesi abbiamo diversi appuntamenti, in particolare per esempio un laboratorio per la redazione del business plan che si terrà l'11, il 18, il 24 e il 31 ottobre presso la nostra sede di Marghera. E l'indirizzo esatto, così lo diamo? Via Bambina Molini numero 8 a Marghera, Venezia. Le iscrizioni si chiudono il 26 settembre, quindi c'è ancora tempo. Perfetto, e se qualcuno volesse mettersi in contatto con voi, abbiamo dato l'indirizzo, ma qual è il meccanismo d'accesso al vostro servizio? Sì, allora, noi abbiamo uno sportello telefonico che è attivo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 13 al seguente numero 041 81 06 599. Eventualmente le persone possono anche contattarci al nostro indirizzo email, che è servizionuovaimpresa@ve.camcom.it. Perfetto, Mara, io ti ringrazio per essere stata con noi e per tutte queste informazioni utili che ci hai dato e ti auguro buon lavoro. Prego, grazie. E ora ci ascoltiamo il brano di Alanis Morissette, Hands in My Pocket, e poi ci ritroviamo qui in studio. I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind, I'm short but I'm healthy, yeah. I'm high but I'm grounded, I'm sane but I'm overwhelmed, I'm lost but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to, you said every man's gotta be fine, fine, fine, 'cause I've got Dodici minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Diamo il benvenuto a Giulia. Ciao Giulia, come ti definiresti oggi? Ciao, oggi mi definirei una persona soddisfatta che ha finalmente capito qual è il suo futuro professionale e che è nelle condizioni di poterci lavorare. Proprio in merito a questo, tu stai per avviare un tuo nuovo progetto. Ci racconti un po' di che cosa si tratta e anche com'è nata l'idea? Sì, 2 anni fa, di ritorno da un progetto di assistentato Grundvig che ho fatto in Lettonia, ho deciso con dei colleghi e degli amici di fondare un'associazione che si chiama Associazione Work in Progress, che ha sede a Padova, sulla quale abbiamo lavorato come volontari fino adesso, quindi un po' quando eravamo liberi dal lavoro, dedicandoci i nostri weekend, le ferie e così via. Finalmente da ottobre potrò dedicarci invece il mio tempo pieno, quindi diventerà la mia occupazione prevalente, e quindi l'idea è quella di poter fare sempre più cose, più progetti. Ci occupiamo di mobilità e formazione all'estero, in ecco, Europa. Nello specifico che cosa si tratta? Cioè, noi mobilità e formazione all'estero, ovvero? Noi promuoviamo percorsi di apprendimento, quindi di scambi di giovani, piuttosto che di corsi di formazione in Europa. E quindi siamo sia promotori di progetti che ci vengono finanziati direttamente in Italia, sia lavoriamo in partnership con altri enti in Europa che appunto poi hanno il finanziamento su cui noi cooperiamo, magari inviando delle persone o facendo conoscere anche le loro iniziative. Giulia, quali sono state le difficoltà incontrate nell'avvio appunto ecco di questo nuovo progetto? Le difficoltà sono state prevalentemente di tipo economico, nel senso che non avendo un capitale iniziale alle spalle non mi sono potuta dedicare immediatamente a questo progetto, ma ho dovuto continuare i miei diversi lavori sempre nel settore della formazione e dedicandoci quindi un tempo marginale, e un tempo marginale significa anche poter fare di meno e quindi non poter usufruire appieno di tutto quello, di tutte le opportunità, di tutte le proposte che si potevano in realtà fare. Inoltre, per esempio, per avere alcuni finanziamenti è necessario presentare delle fideiussioni, sia le banche che le compagnie assicurative non sono molto propense a dare fideiussioni ad una piccola associazione che non ha un grosso storico e che non ha dei soci che possono presentare grossi modelli unici personali, e quindi la difficoltà è stata anche quella, quindi per me di tipo prevalentemente economico. Oggi che invece appunto ti appresti a dedicarti a tempo pieno a questo nuovo progetto, quali sono gli obiettivi che ti poni? Ma gli obiettivi sono quelli di rafforzare il legame dell'associazione con il territorio, cosa che fino adesso non è stato fatto, operando più a livello europeo, come dire, siamo forse più conosciuti in Europa che non a Padova. Quindi iniziare a fare delle iniziative anche svicolate dei progetti a livello locale e creare una partnership con le altre associazioni e con gli enti pubblici che appunto del territorio, e ampliare le attività che facciamo e quindi poter proporre sempre più cose. Bene, Giulia, se ti chiedessi di dare un consiglio a un ragazzo giovane che volesse intraprendere un percorso simile al tuo, che cosa ti sentiresti di dirgli? Non sono brava nei consigli, però io direi che tutto torna alla fine, per cui il percorso non è semplice, bisogna lavorarci, ma se è la passione, se quella è la passione, se è quello che si vuole fare, avere un po' di pazienza e non mollare subito, ecco. Grazie. Provarci. Giulia, grazie. Grazie, in bocca al lupo allora per Grazie. Questo tuo nuovo progetto. Grazie, ciao Giulia. Ciao. 12 minuti a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Siamo giunti al termine di questa puntata dedicata al tema dell'imprenditoria giovanile. Abbiamo avuto con noi ospiti Venezia Opportunità, che ci ha raccontato chi è e che cosa fa e di tutta l'attività di sostegno e informazione che dà a giovani ragazzi che vogliono intraprendere un percorso imprenditoriale, quindi realizzare un progetto proprio, individuale. Abbiamo avuto anche un po' di informazioni in merito alle attività regionali che supportano e che danno a sostegno proprio a questo tipo di imprese. Nella seconda parte della nostra puntata abbiamo avuto ospite poi Giulia, questa giovane ragazza che sta intraprendendo proprio in questo momento un suo progetto personale, sta cercando di portarlo a termine. Prima di salutarvi vi do qualche anticipazione sulla prossima puntata, che sarà dedicata al lavoro nel mondo dell'arte, e quindi poi insieme scopriremo appunto come poterci entrare e un po' come funziona il mondo in questo settore. Per oggi è davvero tutto, io vi saluto, ci sentiamo al prossimo appuntamento, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.